questo giovedì 3 maggio. Intanto i titoli per il Sole 24 Ore: addizionali IRPEF e tariffe, nuovi rincari dai comuni. Questo è il titolo incoraggiante di apertura, incoraggiante per gli italiani. Ed eccolo qui dunque l'appello del governo. Corriere della Sera: cittadini, segnalate gli sprechi, appello del governo, il premier, per la crescita serve tempo. Repubblica: italiani, denunciate gli sprechi. La Stampa: il governo, denunciate gli sprechi. Il Messaggero: segnalate gli sprechi sul web. Il Giornale e Libero sono ironici. Il Giornale: governo cabaret. E Libero: giocate al tagliaspese. Per l'Unità: disturbi tecnici, sbandamenti di governo, Monti affida Italia a Bondi che però si appella ai cittadini, segnalate gli sprechi via web. Per Avvenire: Monti, crescere chiede tempo. Per Il Manifesto: la crescita. Mentre il Secolo XIX, pensioni d'oro, governo battuto. Il Fatto Quotidiano invece intervista, l'intervista del giorno, certamente il ministro dello sviluppo Corrado Passera. Passera su pensioni e lavoro, voti alti e qualche errore. I voti alti che Passera dà, li dà a se stesso, cioè al governo. Voto alto. Ma staremo a vedere e vedremo dopo l'intervista a Passera. Prima voglio partire da... Vabbè, c'è la dimostrazione plastica del dibattito più sterile che da anni si protrae in Italia, è quello sulle province, che per carità, ripeto, poi la gente pensa che ci sia accanimento nei confronti delle province. Non è che c'è l'accanimento nei confronti delle province. Tagliare le province non migliorerebbe di granché i conti dello Stato italiano, ma è proprio la dimostrazione plastica di come in Italia si parli, non si faccia mai nulla. L'ultima è questa, una pagina del Corriere della Sera, pagina 11, province accorpate, il rebus delle rivalità. Oh, adesso c'è il rebus delle rivalità, siamo l'Italia dei mille campanili. E allora, una delle ipotesi è questa, che la provincia di Lecco finisca accorpata con quella di Como. E già li vedo quelli di Lecco, vi sento voi di Lecco e della provincia, vi sento voi di Como, con quelli lì, mai. È così, e infatti Lecco, il problema della rivalità, ramo di Manzoni che si sottomette a quello di Alessandro Volta, ma com'è possibile in Italia? Oppure il tema annoso è questo, un altro matrimonio impossibile, quello di Piacenza con Parma, noi di Piacenza con quelli di Parma. Noi di Parma con questi piacentini che si sentono più lombardi che emiliani? Insomma, il governo Monti ha già dato un bel fendente. Col decreto Salva Italia le province sono state abbassate a enti di secondo livello, abolite le giunte, consigli provinciali eletti non dai cittadini ma dai consigli comunali interessati, ma sono sempre lì. E ora si pensa ad accorparle, ma come si fa ad accorparle? Le rivalità. Nella scelta più drastica, fa sapere il Corriere della Sera, saranno salvate solo 36 province. Ieri il Messaggero parlavo, l'altro ieri i giornali non c'erano, l'altro ieri, di 50 macro aree. Ma non se ne farà nulla, cari italiani, non se ne farà nulla. E intanto a Lecco dicono, ma che, noi sotto Como? La rivolta, la rivolta. Notizie dalla casta siciliana, pagina 20 della Stampa, la buvette senza sconti spinge i politici alla dieta. Nel Parlamento, bisogna chiamarlo Parlamento, regione a statuto speciale, i consiglieri regionali sono onorevoli in Sicilia e la sede del Consiglio regionale è il Parlamento siciliano. Palermo, disertata la buvette dai deputati. Cosa è successo? Un po' quello che è successo anche nel Parlamento nazionale, racconta Laura Anello da Palermo. Sono aumentati i prezzi? Aumentati. Poi il caffè costa 36 centesimi. E si mangia, sì, una grigliata a 15 euro, ma prima quanto costavano? Beh, spaghetti alle vongole a 1,85 centesimi. A Peterbes, che invece già viene già l'acquolina in bocca. Una frittura di triglie a 2,78 euro. Questi prezzi prima, 2,78 euro una frittura di triglie alla regione Sicilia. Poi hanno deciso di adeguare i prezzi, perché l'antipolitica, perché è giusto così, insomma. E quindi gli onorevoli, così si chiamano appunto i consiglieri regionali in Sicilia, si risolsero a rinunciare a due benefit. Uno è quello della pancia, cioè da quando è aumentato il prezzo alla buvette del Parlamento della Sicilia è crollato miseramente il fatturato della società di ristorazione, perché adesso costano 15 euro per una grigliata, e quindi che fanno i deputati siciliani? Vanno a mangiare altrove, non so, si portano quella che a Milano chiamerebbero la schiscetta, in Sicilia non so cosa, non so come si chiama, e comunque il conto e i conti economici della società di ristorazione sono crollati da quando non si paga più 1,85 centesimi per gli spaghetti alle vongole e 2,78 centesimi di euro per la frittura di triglia. Sono passati i tempi belli anche alla regione Sicilia. Tutto questo lo trovate sulla Stampa e noi ci fermiamo 5 minuti. 24 mattino. E allora, 7:32 minuti sull'accorpamento delle province, giustamente un ascoltatore, non so se da Livorno o da Pisa, Federico mi scrive, me lo immaginate, l'accorpamento di Pisa e Livorno, la sobrietà di Monti che annuncia l'accorpamento delle province di Pisa e Livorno, succede una rivolta, no? Com'era quel detto, credo, livornese, meglio un morto in casa che un pisano all'uscio, Provate a accorpare Pisa e Livorno e poi ci raccontate e contate i feriti e i morti per la guerra. Vabbè, adesso ironia a parte. Comunque l'accorpamento delle province è il nuovo mantra per cercare anche di tagliare la spesa pubblica, così ne parla il Corriere della Sera, ma proprio tuffiamoci su questo tema, il tema con cui aprono la maggior parte dei giornali, vale a dire quello delle segnalazioni. Intanto, in un momento economico sancito ancora dall'Istat, impietoso per quel che riguarda la disoccupazione che cresce al 9,8%, tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore, pagina 8, Claudio Tucci racconta della caduta del potere d'acquisto, la difficoltà delle famiglie a arrivare a fine mese, incertezza sul futuro che fanno uscire dal limbo dell'inattività, soprattutto giovani e donne che dallo scoraggiamento passano a una fase di ricerca attiva di un impiego, finendo quindi per ingrossare le file dei disoccupati che a marzo scorso hanno raggiunto, secondo l'Istat, un incremento record, più 23,4%, pari a 476.000 disoccupati in più. Soprattutto preoccupa la disoccupazione giovanile, cioè tra i 15 e i 24 anni, a marzo è schizzata al 35,9%, vale a dire circa 600.000 unità delle forze lavoro di quell'età, e in aumento di 2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Questi i dati impietosi, negativi sulla occupazione, o verrebbe meglio da dire disoccupazione, soprattutto giovanile. Intanto il governo, si può ironizzare e dire il governo di tecnici ha nominato dei commissari, tra cui un super tecnico Enrico Bondi, che come prima risposta, certo farà delle cose, però ha anche detto e fa un appello agli italiani, quindi che a questo punto sono i super super tecnici, tutti noi italiani, cari italiani, aiutateci a capire dove possiamo tagliare. I cittadini segnalino gli sprechi. Sulla pagina del governo, governo.it, c'è la sezione Spending Review, basta, ormai è entrata ufficialmente, dunque anche a Palazzo Chigi, questa obbrobriosa espressione, Spending Review, il taglio della spesa, la revisione della spesa, e c'è un modulo che potete compilare. Attenzione, non verranno prese in considerazione le segnalazioni anonime. Questo fanno sapere dal governo, quindi verranno prese in considerazione i suggerimenti degli italiani dove tagliare. I cittadini segnalino gli sprechi. Questo è un po' il titolo d'apertura della maggior parte dei giornali, e vediamo chi critica, chi elogia. C'è da dire che soprattutto sono critiche quelle che sono arrivate. Per esempio, in prima pagina del Sole 24 Ore un piccolo corsivo firmato Alberto Rioli, uno dei vice direttori, è proprio dal titolo Antipolitica. Scrive Orioli: se la risposta è chiedere ai cittadini di segnalare sul web l'Italia dei mille sprechi, siamo sempre in odore di antipolitica o di ricerca, un po' buon mercato di consensi del popolo della rete, per la verità molto perplesso. È vero che il governo dei tecnici siede sulle macerie di partiti impotenti finora a gestire riforme incisive, ma pur sempre azionisti imprescindibili di questa nuova avventura istituzionale. Ma se il governo delle tasse cerca scorciatoie internettiane, demolendo la tecnostruttura dell'amministrazione, perde un po' di smalto. Se c'è bisogno delle denunce in stile Iene, a che servono la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, i servizi di audit interno, le commissioni di vigilanza, la ragioneria, le tante autorità di controllo? Che siano qui i veri tagli da fare? Forse azioni più concrete, come ad esempio il pagamento dei debiti verso i fornitori o la restituzione dei crediti IVA, creerebbero consensi più forti e l'economia tutta ne trarrebbe giovamento sicuro. Ma ripeto, soprattutto critiche, ci sono le ironie di giornali come Libero, e il giornale Libero titola "Giocate al tagliaspese". Tra l'altro il suo direttore Maurizio Belpietro inizia il suo editoriale raccontando un piccolo retroscena redazionale. Lunedì scorso, quando si è trattato di commentare la nomina supercommissario di Bondi, a Libero si è discusso molto. L'ala radicale del giornale propendeva per un secco titolo "Il giorno dopo ci hanno preso per il culo", mentre l'ala più morbida, nella quale mi ci metto anch'io, era per un più castigato "ci hanno presi per i fondelli". Col senno di poi avremmo fatto meglio a decidere per la versione meno casta. Un po' volgarotta, ma aveva il merito di esprimere appieno ciò che sta accadendo da quando al governo ci sono i tecnici. Così Maurizio Belpietro, mentre il giornale dice "è il governo cabaret, benvenuti nel governo cabaret", così titola il giornale. Anche l'Unità è critica, in prima pagina, "disturbi tecnici", e ci sono Mario Monti ed Enrico Bondi che si stringono la mano. L'editoriale del direttore dell'Unità, Claudio Sardo, dal titolo "di chi sono le responsabilità", scrive Sardo: "La scelta del governo dei tecnici di nominare altri tecnici per formulare piani di governo risponde più a una logica di propaganda che a uno stile di sobrietà. Ma c'è una cosa che suscita maggiore irritazione della scivolata del Premier: la reazione scomposta e fraudolenta di PDL e Lega, che cercano di scaricare le proprie responsabilità nel disastro del Paese". Scrive poi all'interno dell'Unità, pagina 24, Sardo, nel suo editoriale che continua: "Cosa fanno questi signori che ci hanno portato sulla soglia del baratro? Urlano, si sbracciano, raccontano favole, perfino competono con Grillo, inneggiando alla rivolta". Insomma, la critica certo al governo, ma anche per il direttore dell'Unità, chi ci ha portato in questa situazione. C'è da dire che va trovata su Avvenire, con il suo direttore Marco Tarquinio, un unico commento favorevole a questa iniziativa. "Inquieti, non stupidi", questo è il titolo dell'editoriale in prima pagina del direttore di Avvenire. E scrive Tarquinio: "Penso che il governo e l'ammazza spese inutili designato Enrico Bondi abbiano fatto bene ad aprire un sito online di Palazzo Chigi e a mettere a disposizione dei cittadini una linea diretta di comunicazione dedicata al tema dei soldi usati male. Qualcuno ironizzerà, inveirà per l'invito alla delazione. Altri, spero tanti, prenderanno invece sul serio la chance di dare indicazione all'interlocutore istituzionale. È importante che ciò avvenga". Insomma, Tarquinio dice: perché no? Non è male. Tra l'altro, mi hanno ieri fatto notare un ascoltatore dalla Gran Bretagna che in Inghilterra è successo, le segnalazioni dei cittadini sono state tante, sono state prese in debita considerazione dal governo ed è stato fatto tanto. Quindi, come al solito, le cose, se vengono utilizzati bene, sono buoni. Certo, le critiche sono anche istituzionali. Sentite cosa ha detto il garante della privacy Pizzetti, intervistato da Repubblica, pagina 2. Attenzione, iniziativa comprensibile, ma occhio alle delazioni. Arrivano le prime problematiche. Nell'intervista di Luisa Grion, Pizzetti dice: "L'iniziativa è comprensibile, vista la necessità di fare presto, addirittura lodevole nei suoi intenti, ne apprezzo il valore simbolico, ma non posso nascondere che l'invito fatto ai cittadini solleva diverse perplessità". E quali? "Da presidente dell'autorità vedo possibili criticità rispetto all'informativa sul trattamento dei dati. Il nostro ufficio ha già aperto un'analisi sul fatto e a prima vista posso dire che la questione merita la nostra attenzione. L'ambito di competenza del garante è questo, ci occupiamo del trattamento dei dati. Se sarà chiesto il nostro parere, siamo pronti a collaborare con il governo". Ecco dunque che il modulo in cui si accede al sito che chiede dati personali, nome e cognomi, e ci fa porre dei dubbi. Le denunce saranno generiche, si dovranno fare anche dei nomi. Tutto questo Pizzetti vuole capirlo, perché come garante della privacy dice ci possono essere delle problematiche. E intanto Bondi al lavoro. Bondi entro 15 giorni farà il cronoprogramma. Ci sono già gli ispettori. Pagina 2 del Corriere della Sera: il super commissario prepara la squadra di ispettori. L'articolo di Dino Martirano. Il commissario Bondi vigilerà sui livelli di spesa e sui capitoli di costo di tutti i palazzi pubblici, fatta eccezione per il Quirinale, la Corte Costituzionale, il Parlamento. Ah sì, perché questa è la prima notizia che è uscita. Questi organismi hanno l'indipendenza, l'autonomia. Dunque, questa spending review non riguarderà il Parlamento, non riguarderà la Corte Costituzionale, non riguarderà il Quirinale, appunto organismi autonomi che i tagli se li facessero da soli. Potrà inviare gli ispettori, Bondi, di Palazzo Chigi nelle stanze chiave dei ministeri, richiedere documentazione anche classificata. Potrà disporre della Ragioneria Generale dello Stato per passare ai raggi X i conti delle autorità indipendenti. Segnalerà ai governatori le spese anomale della regione. Le segnalerà, cioè non è che le segnalerà. Cari governatori della regione, spendete male qui. Insomma, controllerà anche gli enti locali. In ogni caso, i ministeri avranno un limite di tempo, cioè entro il 31 maggio, entro i quali presenteranno le ipotesi di risparmio. E se non lo faranno, il concetto chiarissimo enunciato dalla direttiva firmata da Monti è questo: i progetti di ciascun ministero devono essere presentati entro il 31 maggio. Il Presidente del Consiglio assume, anche in assenza di proposte, le conseguenze e determinazioni. Tradotto, entro il 31 maggio non presentate... dove tagliare? Il governo taglia dal punto di vista centrale. Segnalo anche su Libero un attacco, una critica alla scelta di Giuliano Amato. Racconta Franco Becchis, il suo vice direttore. Giuliano Amato: abbiamo fatto il calcolo, è costato ai contribuenti italiani 13.661.172 euro, contati al centesimo. Il numero uno in Italia vive di politica da decenni. Questo è il frutto, Becchis racconta, del calcolo dello stipendio da parlamentare, dei vitalizio, delle pensioni, arriva fino a una superpensione da 30.000 euro al mese. Insomma, tutti i calcoli, ha preso 13 milioni per regalarci 507 miliardi di debito pubblico. Questo è il titolo di Libero. Segnalo anche molto interessante il fatto che Francesco Giavazzi, che è uno dei consulenti scelti da Monti per quel che riguarda il settore imprese per vedere la spending review, oggi firma con Alberto Alesina, come fanno spesso in coppia, l'editoriale del Corriere della Sera, ed è una critica. Buone intenzioni e acqua fresca. Questo è l'editoriale in prima pagina. La spending review, scrivono Alesina e Giavazzi, e cioè l'analisi e revisione della spesa pubblica, ha partorito un timido topolino, un risultato quasi imbarazzante per il governo. La spesa ammontava lo scorso anno al 23,5% del reddito nazionale, PIL. Con sussidi e pensioni la spesa sale al 45,6%. In poche settimane il governo Monti ha alzato la pressione fiscale di 3 punti. Sulla spesa invece non ha fatto quasi nulla, tranne gli interventi sulle pensioni importanti, ma i cui effetti si verificheranno in modo graduale nei prossimi anni. Ecco, per esempio, le province. Si pensa di concentrare alcune province. Nemmeno la loro eliminazione produrrebbe effetti macroeconomici forti, ma è deludente che perfino su questa decisione il governo sembra aver fatto un passo indietro. Insomma, una spending review bocciata. C'è anche un PS alla fine dell'editoriale di Alesina e Giavazzi. A uno di noi, Giavazzi, il Presidente del Consiglio ha chiesto di scrivere un rapporto su un aspetto emblematico della spesa, i trasferimenti dello Stato alle imprese. Poiché non abbiamo risparmiato critiche al suo governo, questo dimostra che Monti è una persona pronta ad ascoltare anche chi lo critica, tratto non comune in Italia. Firmato Alberto Alesina e Francesco Giavazzi. Intanto il ministro Passera, e da qui ripartiremo dopo il traffico, intervistato dal Fatto Quotidiano, dice: che voto do al governo? Buono, buono. Il governo è promosso, così dice Corrado Passera. Certo, sembra un po' come chiedere all'oste se il vino è buono. Però, intervistato da Carlo Tecce, trovate un'intera pagina di intervista, pagina 2, il ministro dello sviluppo, nonché ministro delle infrastrutture e trasporti, dice alla prima domanda che voto darebbe al governo, buono. Il recupero di credibilità è stato quasi immediato, voto alto alle riforme, dalle pensioni al lavoro, all'agenda per la crescita, un programma senza botti ma molto articolato e concreto. Poi, tornando alla pagella, bisognava mettere in conto qualche inevitabile errore, ingenuità da parte di chi, come noi, non è abituato a governare la macchina dello Stato. Avevo un Corrado Passera che dice la riforma del lavoro è sufficiente, ha svolto una trattativa difficile il ministro Fornero, una riforma efficace per ridurre il precariato, estende gli ammortizzatori sociali a categorie che ne erano privi. E riguardo al futuro dice credo che con la prossima legislatura si tornerà alla situazione politica fisiologica, vorrebbe anche dire che saremo fuori dall'emergenza, dunque l'esperienza dei tecnici finisce qui. Così dice Passera, che però parla anche del suo futuro in politica e risponde a Carlo Tecce del Fatto dicendo dobbiamo evitare di dare alcuna connotazione partitica a questo governo, ma mi piace certo contribuire a far emergere l'enorme energia latente diffusa nel nostro paese per creare posti di lavoro. Insomma, non risponde in realtà se vuole restare in politica oppure no, fa un po' un giro di parole. Sulla spending review, il tema di questi giorni, eccolo qui, Passera, la spending review è un lavoro impostato da tempo, ci siamo dati obiettivi ambiziosi sulle spese modificabili nel breve termine, 8-10% su base annua, per gli acquisti pubblici abbiamo nominato un commissario che dovrà mettere a pieno regime la Consip, riconsiderare gli acquisti, mettere fine all'inaccettabile differenza di prezzo delle diverse amministrazioni per pagare prodotti e servizi. Tutti i ministeri per primi devono fare la loro parte per evitare che scatti l'aumento dell'IVA a ottobre che avrebbe inevitabilmente effetti recessivi. E sui tagli possibili al Ministero dello Sviluppo dice Passera siamo già passati da oltre 500 persone a 350, abbiamo disdetto metà degli affitti con risparmi in 3 anni di almeno 20 milioni. Vabbè, questa è l'intervista che trovate a pagina 2 del Fatto Quotidiano. Il clima però rimane molto teso sul tema tasse, sul tema IMU in particolare, come detto avremo ospite un sindaco che ha invitato e inviterà i cittadini esplicitamente a non pagare l'IMU, questo in barba all'avviso del ministro Cancellieri che ricorda il Sole 24 Ore a pagina 3, ha detto i sindaci sono ufficiali di governo, non dimentichino che lavorano per il paese, e invece a pagina 4 trovate ieri la giornata del premier Mario Monti che ha ribadito è evasione non pagare l'IMU. Sta di fatto che tutti i calcoli anche dell'IMU e per gli italiani li trovate sul Sole 24 Ore, dilaga la protesta contro l'IMU, questo è il titolo dell'articolo che trovate a pagina 3, cresce la mobilitazione, e si avvicinano però i giorni in cui ci sarà la prima rata da pagare, no? Il 16 credo. E quindi ci sono anche i calcoli sul Sole 24 Ore, trovate i primi calcoli, insomma, come calcolare l'IMU, il primo vademecum per capire come orientarsi in attesa che dal punto di vista politico si sciolga questo nodo, si paga, non si paga, rivolta fiscale, disobbedienza fiscale, Monti che dice è evasione fiscale non pagare. Che dire? Beh, c'è un tema politico interessante. Ieri il governo è andato sotto in Parlamento. Sul Sole 24 Ore la cronaca parlamentare la trovate a pagina 5, si votava sulle pensioni d'oro e c'è stato un emendamento dell'Italia dei Valori che ha ottenuto consensi bipartisan con circa 72 franchi tiratori. Grazie a questo emendamento si è cancellato l'articolo che avrebbe consentito ai manager statali l'introduzione del tetto retributivo di 293.000 euro previsti dal decreto Salva Italia, cioè che avrebbe consentito delle deroghe, e dunque con questo emendamento si è cancellato un articolo che prevedeva delle deroghe. Le deroghe in Italia, c'è sempre l'inganno nella deroga, prevedeva le deroghe per alcuni che potevano così sforare il tetto di 293.000 euro, il tetto retributivo per i manager di Stato previsto dal decreto Salva Italia. Pensioni d'oro, governo battuto. Questo è il titolo del Sole 24 Ore a pagina 5. Voglio chiudere con una notizia di cronaca, mi ha molto inquietato, la trovate su Repubblica. A pagina 19, il tassista ucciso, la fuga dei testimoni. Vi ricordate la vicenda del tassista Luca Massari, ucciso dopo un incidente di strada, aveva ucciso con il suo taxi un cane per sbaglio, è sceso ed è stato massacrato di botte ed è morto per questo. Al processo i testimoni svaniscono nel nulla. Uno, scrive Emilio Randaccio su Repubblica, pagina 19, ha scritto una lettera al PM dicendo: avendo paura che succeda qualcosa a me e alla mia famiglia, non voglio testimoniare. Un altro si è reso irreperibile, per vederlo in tribunale si sono dovuti inviare i carabinieri. Un terzo, per il suo stato di salute e problemi psicofisici, a detta del medico che lo ha in cura, è meglio che in tribunale non si presenti. Sono i tre testimoni chiave di questo omicidio avvenuto il 10 ottobre del 2010 in un ambito, fanno sapere i magistrati, subito di omertà assoluta. Il primo che parlò di testimone ebbe l'auto bruciata il giorno dopo. Milano, non in un processo, scrive Repubblica, non in un processo alla criminalità organizzata, ma al processo per l'uccisione di questo tassista. Tassista ucciso, la fuga dei testimoni, lo trovate su Repubblica, pagina 19. Davvero un brutto spaccato d'Italia. Devo dare il titolo alla Gazzetta dello Sport, vabbè, solo rinviata la festa della Juventus, ormai mancano due partite, scudetto abbondantemente già assegnato e da me digerito, purtroppo paperissima Buffon, sogno Milan, vabbè, sogno Milan, d'altronde l'anno prossimo si può vincere. Il giornale radio.